Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason, and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. 1, 2, 3, 4, 1, 2! It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. It's been one too many mornings sleeping on my own, but I've seen the light and I'll be coming home to you one of these mornings, and I'll be sleeping next to you that night. Yeah, I'll be sleeping next to you that night. La la la la la la la la la la la la la la. Brad Brick, già batterista dei The May Shy e ora anche solista con questo inno, questo One Too Many Mornings Anthem, l'inno di One Too Many Mornings, film indipendente statunitense. Prima ancora invece la morriconiana, perlomeno nella sua tromba Riverside, da parte dei 13 Ghosts, ed ora un ritorno dopo la maternità, Lilith and the Sinner Saints, la cantante piacentina che si fa accompagnare dai suoi soliti amici che ormai da tanti anni le danno una mano, ma anche da qualche nome nuovo come quello di Umberto Palazzo, proprio per esempio nel brano in questione. Lilith and the Sinner Saints, questa è la ragione sociale precisa del ritorno discografico per Alpha South. Il brano che ci ascoltiamo è Mambo Jumbo, Talking Blues. Cavaliere, è un blues a passo di danza, è amore carnale, è bere e mangiare. Il mio divino cavaliere è un tamburo lontano nel buio, è un serpente piumato, è un invisibile arcobaleno. Marciante del funerale, è un piccolo ragno che striscia, è signore dei crocicchi, 3 minuti fa. Hey!

Gentlemen, this is a test. Moments such as these are matters of faith. To fail is to invite doubt into everything we believe, everything that we have fought for. Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen. Gentlemen, I want this terrorist found, and I want him to understand what terror really means. Manca veramente una manciata di minuti alla chiusura della prima parte di Eclettica, poi dopo una breve pausa sarà la seconda parte a durare fino attorno alle ore 20, come tutte le sere sulle frequenze di Rock FM con Giulio Caperdoni. Prima parte che però non voglio dedicare nei minuti rimanenti solo alla musica, voglio trovare lo spazio anche per una frase che indirettamente mi ha fatto venire in mente Gianni da Napoli, scrivendo un mail a giulio@radiorockfm.com che lessi in onda qualche settimana fa. Ecco, leggendo quel mail mi venne in mente una frase che avevo letto di recente, ma non ricordavo né dove né chi l'avesse scritta, quindi seguendo un filo mentale e dopo aver sbagliato strada più di una volta, alla fine, sfogliando alcuni libri, trovai la frase. Indovinate un po' di chi è? È di Tiziano Terzani. Ma giuro, per un po', per qualche mese, prometto che non lo citerò più, perché sì, è un grande, ma il troppo stroppia. Ecco la frase. Noi non siamo quello che mangiamo e l'aria che respiriamo. Siamo anche le storie che abbiamo sentito. Le favole con cui ci hanno addormentati da bambini, i libri che abbiamo letto, la musica che abbiamo ascoltato e le emozioni che un quadro, una statua, una poesia ci hanno dato. Ecco, lasciando le parole di Tiziano Terzani, per tornare alle mie, a me fa molto piacere che per Gianni e anche per altri all'ascolto a questa lista si possa aggiungere anche una piccola trasmissione come questa, piccola trasmissione in cui avete appena ascoltato i canadesi Holy Fuck con Lovely Allen e prima ancora i californiani The Warlocks con So Paranoid, in cui vi state per ascoltare una band scozzese all'esordio. Loro si chiamano Correcto, sono un quartetto di cui solo il leader Danny Saunders lavora a tempo pieno, per così dire. Gli altri tre fanno parte anche di altre formazioni, fra cui Franz Ferdinand. Correcto, che dimostrano come ancora la Domino abbiano il naso fino per trovare nuovi talenti e che sono usciti con un album omonimo, come si conviene in questi casi, da pochissimi giorni, dal quale vado ad estrarre una canzone che, almeno per me, rimane in testa al primo ascolto. Si tratta di Johnny. Jolie, Jolie, I am married.